Thank you. mi piace. dello stil che ha proposto una picciola scena e si risolva su quel che piacerà. Che farei miele con le ventor! Non si può! Incomincia, si vede! No, questo no! Sì, è la prima tancia! Ben, volentieri! Eccomi a dovedire! Spiegar bisogna ciò che farsi pretende prima di incominciare. Questo si intende. Io fingerò. Cioè, posso fingere quel che mi pare? Certo! Benissimo. Fingerò dunque. E non importa il caso se l'abito o non ne corrisponde. L'abito si figura. Ottimamente. senti la scena. Una valletta mena abbia all'intorno di platani ed allori fortissimo recinto e si travegga fra pianta e pianta ove maggior distanza qualche rozza capona in lontananza. Qui al confino d'un fonti il crinzi ne fiora, i licori pastorella, semplici quanto bella, attirsi la bianco che piangendo l'accusa e di poco amore, ella che amor promise e d'amor non si intende, riso che il bianco e il pastorello s'offende. Bellissima si vede, qui manca il pastorello, se mi fosse permesso, io sarei quello. Sì, anche di nuovo, bellissimo. E poi tocca a me, sorrise, poi mi dice il pastore, mandacelo un po' di lupo. Per dire la verità, questa diversità mi sta un che ma tirannia, quelle sempre lusingarmi, quelli da sempre che mani e non amarmi, lo so, già sei sdegnata, credo mi vuoi, ma come oddio, se tuoi begli occhi amati, nulla mi dicon mai, se mai non veggo di timor, di speranza, di gelosia. Tenerezza un solo trasporto in te, se mai non trovo un segno de tumulti dell'alma in quel sembiante, come posso, o crudel, come posso creder sono lungi e non ma la ninfa che erora è bella assai. Salute! Sì, bene! O diamo il resto! Oh! Ma dov'è quel soggetto che sta parlando? ci annerai del tuo. Il vano dir si accomodò, oh mio, e ben tangio di letto, chiedi alla tua letta, ritoccando il tuffe. Ola, qualcuno a me, qualcuno, ola. Thank you. Questo. casa è stravagante e rara. Io volentieri. Ognun nel cuore, ognuno se ne intende, non fa piangere, non secca e non offende. Sì, sì, piace anche a me, odir qualcuno, novità nella scelta io non ritrovo, ma quel che si fa bene è sempre nuovo. Yeah. Il dolce a cielo.